24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 19 minuti e 15 secondi di venerdì 10 luglio inizia la terza parte di 24 Mattino, appunto, di questo venerdì. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia. Maria Latella, ciao, buongiorno, eccoci. Ciao Simone, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Rapido volo sulla prima pagina del Guardian, che non ha una buona notizia, perché l'apertura è sull'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sul fatto che la pandemia da coronavirus non è per niente sradicata, ma anzi in alcuni paesi, così titola anche all'interno il Guardian, il Covid è fuori controllo. Quindi grande attenzione su questo quotidiano britannico rispetto al diffondersi della pandemia. L'abbiamo visto anche con alcuni casi di contagi provenienti da altri paesi e arrivati in Italia. Mentre invece sulle Figaro c'è la notizia secondo la quale Macron rispolvera la riforma sulle pensioni, quella che tanti guai gli ha procurato un anno fa con manifestazioni di piazza, scontri, eccetera. La rispolvera è, insomma, mi viene da pensare che sia una delle condizioni che l'Europa pone per procedere poi con il Recovery Fund, perché le riforme non vengono chieste soltanto all'Italia, evidentemente. E quindi torna in auge la riforma delle pensioni, vedremo come la prenderanno. Già i sindacati francesi hanno fatto muro e hanno detto non se ne parla. Vedremo. Standard direi. Buongiorno Danilo Toninelli, senatore del Movimento 5 Stelle, ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Toninelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senta, apprendiamo dunque che in realtà era stato lei a scrivere da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che la concessione del nuovo ponte che sarebbe sorto dopo il Morandi sarebbe dovuta andare al concessionario della A10, che è Autostrade, e quindi la concessione del ponte va ad Autostrade, Toninelli. Apprendete molto male, perché è una stupidaggine galattica. Voi sapete che i funzionari del Ministero hanno costante e continuativa interlocuzione con tutti gli organi amministrativi con i quali sono in rapporto. In questo caso c'era la struttura commissariale creata con il decreto Genova del ponte per la demolizione e la ricostruzione del ponte di Genova. Quella fa parte dei tanti riti ordinari di comunicazione e interlocuzione tra una direzione e appunto queste strutture, che non passano sulla scrivania del ministro. Tant'è vero che o nella stessa lettera, che io non ho mai visto, o nella lettera successiva, lo stesso pezzo che l'ha riportato dichiara che ha indicato chiaramente la frase salvo ovviamente l'assegnazione ad un diverso concessionario. Quindi è purtroppo una notizia costruita d'arte, come tante ne sono fatte. Toninelli, vediamo se almeno su questi dati invece le informazioni sono corrette. A quanto si legge, il governo chiede una riduzione immediata delle tariffe al 10%, chiede ad Autostrade 3,4 miliardi di compensazioni, e poi il fatto che la famiglia Benetton faccia un passo indietro. Oggi possiede l'88% di Autostrade, dovrebbe scendere sotto il 50%. Le chiedo, per quel che ne sa lei, sono queste le condizioni che il governo porrà per evitare la revoca? Allora, per quanto dice e sa il Movimento 5 Stelle, è confermato da Corte Costituzionale, che ci ha fatto vincere il ricorso era buono decreto Genova, ovviamente, Corte dei Conti, ci sono i giuristi, ci sono gli ingegneri, l'unica via è la revoca, cioè devi togliere la gestione di un bene di Stato a colui che evidentemente, oggettivamente, giuridicamente, ingegneristicamente ha completamente fallito. Purtroppo non possiamo decidere da soli, perché la concessione è stata legificata, come voi sapete bene, per toglierla devi approvare una legge che gliela toglie. Serve la voto in Parlamento, non ce lo diede Salvini, che se ne dica quel falso bugiardo a me, ma purtroppo è tecnicamente così, non ce la sta dando neanche il Partito Democratico, che però ci ha deluso. Ci ha deluso perché? Perché i tavoli che contano, cioè i tavoli a cui partecipava il sottoscritto insieme all'allora ministro Tria o assieme al presidente Conte, quando riusciva anche lui a parteciparvi, c'è ovviamente la ministra De Micheli, c'è anche il ministro dell'economia e delle finanze. Sapete perché? Perché l'atto di revoca è un atto prima di tutto interministeriale, firmato o meglio cofirmato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal ministro dell'economia, e poi serve immediatamente ovviamente un decreto legge che legifica quell'atto amministrativo, quindi non sono loro i protagonisti, hanno purtroppo perso un po' di tempo, per l'amor del cielo, è un dossier complesso, c'è stato il Covid, per l'amor del cielo, adesso però si chiude, perché il ponte non solo non deve essere dato, il ponte ci mancherebbe altro ai Veneto, ma non devono essere loro restituiti. Ma quanto costerebbe, Toninelli, costerebbe revocare la concessione? 7 miliardi? Così come è stato inserito nel decreto mille proroghe, o molto di più? Secondo me molto meno di 7 miliardi. 7 miliardi è l'impegno, diciamo, di natura bancaria e di investimento in vista della durata, del termine, che mi pare sia oltre il 2030, della concessione stessa. Ma molto di meno sono soldi che non glieli devi dare subito, sono soldi che comunque sono oggetto di un contenzioso. E chi mi dice che ha paura dei contenziosi? Gli dico che i contenziosi ci sono comunque, sia che revochi e sia che non revochi, perché i contenziosi ce l'ha sempre fatti Aspi, anche quando non c'era una politica forte come stato forte nei loro confronti, quindi nessuno deve avere paura. E Conte dice una cosa giusta, o fanno una proposta, ma finalmente è passato troppo tempo, seria, che significa abbattere i pedaggi, cacciare, mi dispiace usare questi termini, però non si può non farlo, perché io ho conosciuto benissimo le famiglie delle vittime, cacciare i Benetton dalla gestione delle autostrade italiane, e poi tutta un'altra serie di cose che significa tanti miliardi di euro di risarcimento che potremmo utilizzare per dare ancora una mano alla Liguria, per dare una mano a quelle infrastrutture e manutenzione di infrastrutture che non hanno fatto, perché guardate che, e concludo per non prendere troppo tempo, dovete sapere che loro hanno negli anni diminuito in maniera esponenziale la manutenzione del bene di Stato che avevano in concessione e hanno aumentato in maniera esponenziale i pedaggi e i guadagni, e non c'è mai stato uno Stato che gli dicesse di iniziare o di tornare a fare le cose come dovevano. Ascolti Toninelli, quindi mi sembra di capire, mi sembra di leggere da quel che dice, poi mi corregga se sbaglio, che lei reputa a questo punto una via d'uscita, possiamo definirla onorevole, il fatto che i Benetton scendano sotto la maggioranza e entri lo Stato, in quel caso si può evitare la revoca della concessione. Questo lo dico perché poi ha ragione lei a dire che i contenziosi ci sono sempre. È vero anche che questo rischia di essere un contenzioso di dimensioni molto grandi, dall'esito incerto, nel quale magari lo Stato giustamente non si vuole ficcare, insomma può starci. La ritiene una via d'uscita onorevole quella oppure no? Allora, le trattative si fanno ai tavoli politici, con l'affiancamento di tecnici che fanno e che danno quei numeri necessari per capire quanto abnorme era il guadagno che avevano questi concessionari. Però dobbiamo anche capire che i contenziosi, io quando sono andato al Ministero avevo una delle cose che ho chiesto è quanti contenziosi abbiamo con i concessionari. C'erano 400 contenziosi e non dobbiamo avere paura su questo. Perché se la Corte dei Conti ha dichiarato il contratto concessorio, cioè quella roba lì. Però mi scusi Toninelli, mi risponde alla domanda, Toninelli, mi scusi, la sua opinione su questo, cioè si può evitare la revoca della concessione in cambio del fatto che i Benetton cedano la maggioranza? Ma io non le rispondo che la trattativa si fa ai tavoli, non posso oggi permettermi di dire, il Movimento 5 Stelle ha portato una proposta scritta, la proposta scritta ha una riga, revoca delle concessioni. Però le dico che la firma la mette la De Micheli e poi la mette il ministro Gualtieri e poi viene fatto un decreto legge che necessita dalla maggioranza in Consiglio dei Ministri e dalla maggioranza in Parlamento. Quindi accettiamo il fatto, accettiamo, ma non ci piace, il fatto che possa arrivare una controproposta, oppure che possa arrivare dal governo, che possa dire finalmente, ok, guarda, che sono queste le condizioni, voi dite che andate con noi, andiamo per la revoca, poi faremo il contenzioso, oppure c'è quella proposta qua, sotto la quale non si scende, ma devono essere condizioni serie, concrete, risarcitorie, enormemente risarcitorie, e non le stupidaggini che sento io, ma vi rendete conto per cui loro dissero, accettiamo di applicare il nuovo modello tariffario che ho inserito io nel modello Genova, che travolge il calcolo dei pedaggi, perché ovviamente il vecchio modello era un modello completamente a favore dei concessionari. Ma io gli ho risposto, ma signore, mi state prendendo in giro, quello è legge e la legge la applicate senza fiatare, invece loro la prendevano come un lascito e la presentavano come un favore nei confronti dello Stato. Sai perché se la presentavano come un favore? Perché dice, tanto noi abbiamo appellato, abbiamo ricorso chiaramente contro questo modello tariffario, quindi magari non lo dovremo mai applicare. No, quella legge la dovete applicare. Senta Toninelli, c'è il rischio che sul sì o il no alla revoca della concessione il governo vada sotto? Allora, ci sarebbero enormi problemi, perché non è una questione ideologica, è una questione tecnica. Sono 6.000 le autostrade private in Italia, 3.000 sono gestite dai Veneto, e tecnicamente, non lo dico io, l'hanno detto i tecnici, il modello di manutenzione devastante, disastroso, fallimentare, applicato su quei chilometri del ponte Morandi, è lo stesso modello, io chiamo di non manutenzione, applicato su tutti i 3.000 chilometri. Io, quando l'ho visto nel settembre del 2018, questa relazione tecnica, sono rabbrividito. Da allora no, Toninelli, la mia domanda, ho capito, la mia domanda era, c'è il rischio che in Parlamento il governo Conte cada su questa questione, perché c'è un pezzo di Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, che agita molto questa questione, ci sono i senatori e i deputati di Italia Viva che hanno preso decisamente le parti di Atlantia e di Benetton, c'è il PD che, come ricordava lei, è incerto. Allora, la domanda è molto semplice, c'è il rischio che su questo il governo possa cadere? Allora, ne parleremo quando vedremo le controproposte di ASPI. C'è il rischio che ci siano enormi problemi, questo oggettivamente sì, però mi permetto di dire una cosa. La domanda va ribaltata al Partito Democratico, io penso in questa maniera. Quali sono le motivazioni per le quali il PD ritiene che non ci siano sufficienti condizioni per revocare? Quali sono? La Corte dei Conti ha detto che il contratto è illegittimo, la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, i tecnici hanno detto che non avevano mantenuto gli obblighi di manutenzione, i giuristi hanno detto che è un grave inadempimento che viola la legge. Quali sono le condizioni per le quali non si possa revocare? Non ci sono. Iniziamo ad innervosirci, perché ci siamo fidati, ed ora però la promessa era da parte del PD, della De Micheli, era che si sarebbe chiuso, e ora ci rendiamo conto che il nostro cancelliere non sapeva nulla della trattativa o della non trattativa che si stava portando avanti, e che dall'altra parte non c'erano delle condizioni o delle proposte serissime, forti, di miliardi, altro che 2 o 3 miliardi, 5 miliardi almeno, che ci devono dare cash come risarcimento, oltre a tutto il resto, abbattimento dei pedaggi. Mi scusi Toninelli, però mi perdoni Toninelli, sì. Non è che se la può prendere con la De Micheli, il dossier sul tavolo di Conte ormai lo sappiamo, abbiamo intervistato 4 volte la De Micheli, la quale 4 volte ha detto non vi dico niente perché il dossier l'ho messo sul tavolo del Presidente del Consiglio, quindi diciamo magari ci sarà anche trattativa tra De Micheli e Autostrade senza che il cancelliere lo sappia, però il dossier è sul tavolo del Presidente del Consiglio, È del ministro dell'economia. Mi posso permettere di dire, avendo fatto per un anno quel ministro, che il dossier, l'istruttoria, la preparazione del dossier sul tavolo del Presidente del Consiglio viene fatta da chi mette la prima firma su un atto. E la prima firma su un atto, io non ce l'ho con nessuno, sto parlando oggettivamente, la prima firma su un atto la mette il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che poi trasferisce il documento al Ministro dell'Economia, che poi va al tavolo del Consiglio dei Ministri, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Io penso che non si possa portare un foglio bianco sul tavolo del Presidente del Consiglio, si porta un foglio pieno di proposte serie e concrete, e lì si discute. Giustamente mi pare che il Presidente del Consiglio abbia detto voglio che i ministri competenti portino delle proposte, questo deve essere fatto. Una cosa dico molto velocemente, nel decreto Geno abbiamo messo un nuovo modello tariffario, significa che i pedaggi diminuirebbero, aumenterebbero le manutenzioni, perché abbiamo proprio stravolto il metodo di calcolo del pedaggio sulla base della esclusiva corretta gestione delle autostrade. Però sai che cosa bisogna fare? Bisogna inserire quell'articolo di legge dentro il piano economico-finanziario, che sono i contratti quinquennali aggiornati della concessione decennale. Non è ancora stato fatto, non è ancora stato inserito. Quel decreto entrava in vigore nel 2000, mesi e mesi fa, è stato rimandato. Cioè, c'è una grandissima attività, quello è un ministero complesso, ha 12 direzioni generali, gestisce un sacco di cose. È un ministero che fa gola a tutti, però, eh? è un ministero che fa gola a tutti, soprattutto per la parte non così, diciamo, onesta e dalla parte dell'interesse pubblico. Non così onesta e non, dalla parte dell'interesse pubblico, perché passano un sacco di miliardi che, se li gestisci bene, si trasformano in servizi, infrastrutture per cittadini e imprese, ma se li gestisci male si trasformano in arricchimenti per strette cerchie di persone o di famiglie, come nel caso ovviamente dei Benetton e di Autostrade. Grazie Danilo Toninelli, ex ministro dei trasporti e delle infrastrutture, senatore del Movimento 5 Stelle, buona giornata. Ancora Toninelli, molto appassionato del tema. Sentiamo. Alla prossima, una pausa e poi continuiamo a parlare di concessioni, ma quelle dei balneari prorogate al 2033. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia, cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Canoni bassi e rendita tutto sommato assicurata, tranne ovviamente quest'anno che sarà duro per tutti, in particolare per il turismo. Parliamo degli stabilimenti balneari dei quali è stata approvata la proroga, per i quali è stata approvata la proroga delle concessioni fino al 2033, in violazione tra l'altro di alcune norme europee. Ne parliamo in due posizioni diverse, quella di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che è stato un po' l'ispiratore di questa proroga. Gasparri, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E Carlo Calenda, parlamentare europeo, buongiorno. Ex ministro dello sviluppo, fondatore di Azione. Calenda, bentornato. Eccoci. Maria, prego. Allora, andrei subito da Maurizio Gasparri, che con Deborah Bergamini è stato un po' l'alfiere del sostegno a questa concessione. È evidente che in un momento di grave crisi per il turismo le concessioni andavano rinnovate. Però mi chiedo, non trova anche lei che i dati li hanno riportati un po' tutti i quotidiani e lo stesso Calenda potrà confermarli, non le pare che lo Stato ci rimetta un po' tanto incassando 100 milioni di euro l'anno dalle concessioni, mentre il fatturato degli stabilimenti si aggirerebbe intorno ai 7 miliardi? Alcuni dati: il Twiga di Forte dei Marmi ha 4 milioni di fatturato e paga 17 mila euro l'anno, il Papete con 3 milioni di fatturato paga 10.000 euro l'anno. Non dovrebbe guadagnarci di più lo Stato, secondo lei, Gasparri? I dati sono falsi, quindi lei, che è una giornalista importante, divulgando queste sciocchezze scritte sui giornali non aiuta la verità. Allora, intanto sono dati di Calenda anche. Ma sì, sono falsi comunque i dati, perché detti così sono falsi, che lo dimostrerò. Intanto, le concessioni sono state già estese al 2033 con la legge di stabilità del 2018, quindi la norma che è stata approvata ribadisce ciò che era già legge. Perché lo ribadisce? Perché evidentemente c'è stato tutto un contenzioso, ci sono luoghi dove questa estensione è stata applicata, luoghi no. La contestazione europea, intanto non c'è una procedura di infrazione, se quando ci sarà la 36esima procedura di infrazione. L'Italia ne ha 35 pendenti, durano anni e anni e spesso si risolvono con delle intese. Perché la eventuale procedura che non c'è riguardante... Ma lo Stato incassa 100 milioni di euro l'anno dalle concessioni, sì o no? Mi fa parlare, lei ha parlato dei casi, no, delle persone. Allora, lei paga il condominio, no? C'ha una casa, paga il condominio, giusto? Allora, se io dico, la Rotella paga 500 euro di condominio, poi la Rotella paga, probabilmente, l'IMU, paga l'IRPEF, paga la tassa sui rifiuti, paga tante altre tasse. Quindi se lei mi fa un discorso sui ricavi delle aziende, non mi può mettere solo le concessioni, perché su quei ricavi le aziende pagano molte cose. Lei lo sa che, per esempio, le attività balneari pagano la tassa dei rifiuti 12 mesi l'anno, ma non lavorano 12 mesi l'anno. Poi, se dei canoni sono bassi, male, malissimo, chi nel singolo caso non applica un canone adeguato, e questa è colpa di chi deve incassare di più. Ieri hanno arrestato un ufficiale dell'aeronautica perché pare che imbrogliasse. Che facciamo? Sciogliamo l'aeronautica, abbattiamo gli aerei? Se c'è qualcosa che non va, si corregge quel canone inadeguato, ma lei deve tener conto. Se lei mi dice i ricavi delle aziende, non mi può mettere i ricavi da un lato e il costo della concessione, mi ci metta tutte le altre cifre di tasse che di varia natura su quelle attività, sì. Le attività bancarie pagano, se uno incassa dei soldi pagherà dell'IRPEF, dell'IVA, sì, delle tasse. Posto... ma lei lo sa che sul turismo c'è l'IVA al 22%, ieri Boris Johnson l'ha portato al 4% e lei crede che non paghino l'IVA, non paghino le tasse? Gasparri, ecco Gasparri, posto, 100, posto... sì, ma sì. Non bisogna dire bugie, sì, posto, posto no, naturalmente che sì. Queste tasse, mi scusi, posto che naturalmente queste tasse, adesso andiamo a Calenda così sentiamo anche la sua, la sua posizione. Mi, sì. Si metta tutte le altre tasse, che, no? Sì, posto, Gasparri naturalmente molto... sì, restano cifre base e posto, ma sono false quelle che avete detto, perché deve mettere tutte le altre tasse, sì. E costi. Che le paga, che pagherebbe anche, che pagherebbe, che pagherebbe calcolare Gasparri. La sua casa solo col condominio, Gasparri, permette, permette, ma è un monologo, ma è, permette Gasparri, adesso volevamo fermi. Allora, andiamo con serenità. Posto, dicevo, Gasparri, che poi le tasse le pagherebbe anche un subentrante, non è che le pagano solamente quelli che sono attualmente concessionari. Se prende un altro la concessione, quelle stesse tasse le paga un altro concessionario. Però sentiamo Calenda, la posizione di Calenda, prego. Allora, primo, non è falso, è perfettamente vero che l'Italia paga, riceve 100 milioni di euro dalle concessioni balneari, poco più di 10 da tutte le concessioni siciliane, che il Twiga paga 17.000 euro, il Papete 10.000, l'ultima spiaggia di Capalbio 4.500, punto. Non è opinabile. Secondo punto, Gasparri fa una grossa confusione, perché un pagamento di un canone di concessione non è una tassa, è un affitto. Cioè, noi è come se avessimo un hotel, un negozio a Via del Corso, lo Stato lo dà in affitto a 1.000 euro. Perché lo dà in affitto a 1.000 euro lo Stato, quando se fosse nostro chiederemmo 10.000 euro? Perché dello Stato non frega niente a nessuno. Quindi quel tutto ragionamento che fa lui sulle tasse non c'entra assolutamente nulla, perché il canone di concessione viene corrisposto sulla base che io ti do in gestione una superficie di pregio dove tu ci organizzi un'attività commerciale sulla quale paghi le normali tasse che pagano tutti. Potremmo anche discutere se le tasse vengono mediamente pagate per intero o no, andandoci a vedere le dichiarazioni dei redditi, ma quello è un discorso differente. Quindi non bisogna fare confusione, il canone concessorio non è una tassa, è un affitto che noi affittiamo a 2 euro per due ragioni. La prima, perché nessuno si cura dei beni dello Stato, e la seconda perché politici come Gasparri, ma non solo, direi di tutto l'arco parlamentare, sanno perfettamente che mentre i balneari votano compatti, il resto degli italiani sostanzialmente se ne frega, a meno che il problema poi non diventi importante, nel senso che quelli sono una lobby che votano, gli italiani che pagano spesso un lettino, un abbonamento, quanto il totale del canone hanno, non lo sanno e non se ne accorgono, bene che lo sappiano. E le dico una cosa, quando ero al Ministero, provai a cambiare questa cosa, fu impossibile perché erano tutti d'accordo, ma almeno dissi: mettete per favore il costo del canone concessorio sopra il costo del lettino, così la gente sa che affitta, per esempio, che ne so io, all'ultima spiaggia di Capalbio 4.500 euro costa l'anno e affitta per la stagione 3.000 euro gli costa, quindi con un lettino e mezzo si è pagata tutta il canone concessorio. Questa è la situazione, il resto sono chiacchiere e unghie sul vetro, come Gasparri sa perfettamente. Peraltro la proroga è invalida, il Consiglio di Stato ha già detto di non applicare ulteriori proroghe perché sono invalide, ci beccheremo a un certo punto anche una procedura di infrazione, quella procedura di infrazione che Gasparri liquida si va da, poi ci si mette d'accordo, nel senso che i cittadini pagano con i loro soldi la procedura di infrazione all'esito, e quindi è un'altra fregatura nei confronti dello Stato. È il modo in cui la politica negli ultimi 40 anni ha affrontato questo ed altre vicende, pensando che i soldi dello Stato non sono soldi di nessuno. Maria, Volevo sentire da Gasparri se non sarebbe stato più equo, più giusto semplicemente rinnovare la concessione per un tempo corto, un tempo legato a questa difficile stagione. Sappiamo bene che i titolari di stabilimenti balneari guadagneranno infinitamente meno quest'anno ci facciamo carico anche di questo problema. Bastava limitare il tempo della concessione e dire: guardate, per quest'anno è così, ma poi dall'anno prossimo teniamo conto degli argomenti che ha appena esposto Calenda. Non sarebbe stato, come dire, di semplice buon senso senso agire così invece di fare una concessione allora, fino al 2033, francamente allora, mi scusi, allora, eccessiva. Primo, allora, per quanto riguarda le cifre, se tu mi metti, come ha detto lei, 100 milioni al lato e i ricavi, su quei ricavi ci sono una serie di tasse, ecco perché ho citato quelle cifre croci, se no il raffronto è assolutamente inadeguato. Se lei mi cita i ricavi, deve citare anche tutte le tasse che su quei ricavi vengono pagate, altrimenti si ha l'impressione che sia un'attività che non paghi tasse, e non è vero. Quindi ho ribadito una cosa evidente. Secondo, in alcuni paesi europei esistono leggi che danno una possibilità di ottenere una licenza per decenni. In Spagna si chiama la ley de costa, la legge per le coste, e anche in Portogallo. Quindi l'Europa non può ritenere che una direttiva vale in un paese e non in un altro. Come io spiegai e convinsi anche il presidente Monti quando era al governo e ci fu una proroga al 2020 in quel caso che stava appunto per scadere adesso che il 2020 sta finendo, la specificità dell'Italia, del sud della Francia, della Spagna, di altri paesi è quella di poter utilizzare per le attività balneari le coste che in altri paesi per ragioni climatiche e ambientali non si possono svolgere. E quindi come la Spagna e il Portogallo hanno fatto delle leggi con concessioni pluridecennali, non si capisce perché l'Italia non le possa fare. Inoltre la direttiva Bolkestein che viene evocata riguarda i servizi e non i beni. In questi casi sono beni che vengono concessi, che restano in proprietà dello Stato. Quindi, come ha detto anche Bolkestein, autore della direttiva, 2 anni fa in una conferenza alla Camera dei Deputati, c'è stata un'applicazione non corretta. Tant'è vero che poi il governo italiano in alcuni settori ne ha chiesto la disapplicazione. Pensiamo al commercio ambulante. Quindi la direttiva. Però lei a Calenda, mi scusi? A Calenda che dice stiamo affittando dei beni dello Stato a prezzi ridicoli. Che cosa risposta? Intanto i prezzi non sono tutti ridicoli. Secondo, nessuno impedisce di modificare i prezzi. Lei non sa, ad esempio, che nell'emendamento approvato ne è stata approvata una parte ed è stata soppressa una parte che aumentava per tutti i minimi da pagare. Perché non hanno lasciato anche la parte che aumentava i minimi da pagare? Perché tutti gli enti del territorio, agenzie del territorio, demanio e quant'altro non si occupano di adeguare i canoni che sono inadeguati? Lo si faccia, ma un conto è adeguare il canone, un conto è dire a lei, adesso facciamo una bella gara, arriva una bella multinazionale, arriva qualcuno che ammazza delle attività produttive italiane. Quindi chi sostiene lo smantellamento delle attività balneari, che devono pagare un giusto canone, se il canone è basso va adeguato, vuole attentare alle attività imprenditoriali che attualmente stanno in crisi come tutte le attività del turismo. L'altro giorno le ho citato che Boris Johnson ha ridotto l'IVA sul turismo, che in Italia è altissima, al 4%, perché non ci occupiamo degli albergatori che poi spesso sono ristoratori, che sono albergatori, che hanno una serie di attività fondamentali per il nostro paese. Se uno viene a fare il turista in Italia vuole poi trovare un museo aperto, una spiaggia attrezzata, un qualcosa che insomma gli consenta di vivere l'Italia per quello che rappresenta nella sua bellezza storica, artistica e naturale. Quindi pagare il giusto se si paga poco, ma non smantellare delle attività, perché se io fossi, se lei fosse un balneare, deve fare degli investimenti, parte adesso questa fase di emergenza che impone tutta una serie di misure sanitarie. Aspetti, guardi che c'è anche Calenda, non so se ho finito, faccio l'investimento, poi l'anno dopo lei mi caccia, ma chi svolgerebbe un'attività? Io pure vorrei un bel negozio nella piazza migliore delle città, se c'è qualcuno che ha buon diritto svolge quell'attività non è che lo caccia e arrivo io. Quindi c'è una manovra speculativa di lobby che vogliono ammazzare piccole e medie imprese italiane al servizio di interessi speculativi. Speculativi, dice lei. Calenda, sentiamo anche Calenda. Calenda, tra l'altro. Tra l'altro, se non ricordo male, in alcuni paesi, come per esempio in Francia, nei luoghi dove ci sono spiagge attrezzate, perché il tema delle spiagge attrezzate sono molto diffuse in Italia, non sono così diffuse in altri paesi, le gare sono state fatte. Ma non solo sono state fatte, ma il principio su cui ho fatto la proposta era di dare un punteggio maggiorato a chi lavorava nella sua concessione. Cioè di fare una gara che diceva tu lavori nella tua concessione, parte della tua attività lavorativa diretta, è chiaro che devi prendere un punteggio di partenza maggiore. È chiaro anche che a quel punto il canone viene rivisto al rialzo, gli investimenti che tu farai, che sono spesso carentissimi, perché le spiagge italiane in moltissimi casi fanno investimenti molto più carenti di le spiagge che uno può trovare addirittura in Portogallo o in Spagna. Aggiungo, lo dico a beneficio di Gaspari, che non si ricorda una singola multinazionale che abbia chiesto, fatto domanda ho fatto una gara per investire in, in una spiaggia, cioè voi vedete le multinazionali, cos'è, la Procter & Gamble che fa, prende la spiaggia a Capalbio oppure a, che ne so, al Circeo. Allora, queste sono totali scuse che vengono fatte per una cosa che è indegna, perché Gasparri ha buon gioco a dire sì, ma noi rivediamo i canoni, certo devono pagare, però stanno sempre lì e non vengono neanche pagati, perché quelli in Sicilia sarebbero teoricamente molti di più, non vengono neanche pagati, perché sanno perfettamente che grazie a una lobby molto compatta, Gasparri e compagni ogni volta li tengono indenni. Allora, cosa bisogna fare? C'è un altro problema sulle spiagge, che ci sono spiagge che hanno degli immobili di pertinenza cosiddetti fissi, che hanno invece canoni enormi, c'è una sperequazione gigantesca. Ci sono spiagge in cui è stato catalogato per il fatto, per esempio, che ci sia un ristorante sulla spiaggia, come immobile pertinenziale fisso e quindi pagano 70.000 euro. Allora, questa è una sperequazione. La proposta che ho fatto io è: facciamo delle gare, salvaguardando chi lavora nella concessione, aumentando il minimo di gara, chiedendo degli investimenti adeguati e saniamo i mobili pertinenziali, in modo che chi si ritrova quella roba lì, che oggi non sta pagando, ma che teoricamente dovrebbe pagare e che prima o poi rischia che gli va un accertamento fiscale e salta per aria veramente, quella roba la mettiamo a posto. Era un pacchetto giusto, serio. La verità è che un pezzo dei balneari sostiene che siccome nelle spiagge prima di loro non c'era niente, il che pure è vero, ma stiamo parlando 50 anni fa, quella roba lì addirittura gli debba essere venduta perché è loro e che la possono passare da generazione in generazione. Questa roba qui è inaccettabile. Tralascio per un secondo il fatto che un giovane oggi non dobbiamo potrà chiudere. Mai mettere in piedi una spiaggia e fare della spiaggia una sua attività. Questo è uno dei un privilegio feudale italiano che è inaccettabile e che la ragione per cui si applica è che i soldi sono dello Stato e non dei privati, quindi se ne fregano. Questo è il punto. Grazie Carlo Calenda. Grazie. Parlamentare europeo, ex ministro dello sviluppo, fondatore di Azione. Grazie a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Dobbiamo veramente chiudere qua. E adesso grazie tutti al mare. Tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare. Cara Maria, ci sentiamo lunedì, 8:20 naturalmente. Lunedì. Grazie per. Grazie per a Carmelo Lauricella in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo ovviamente con Maria Latella alle 8:20, mentre invece con voi altri alle 6:30 di lunedì. Ciao, ciao. E domenica, se settimana. Volete, c'è nessuno perfetta. Certo, certo. Camminando sulla spiaggia. Certo, ciao. Certo, ciao.